pensavamo fosse necessario dare una risposta immediata a quello che sta succedendo in Ucraina, e che però questa risposta immediata che chiama anche al dolore, alla rabbia che penso un po' tutte abbiamo provato questa mattina al risveglio, deve avere anche una lucidità in qualche modo politica di individuare quelle che sono le responsabilità politiche appunto di quello che sta succedendo, che da un lato stanno evidentemente dalla parte di Putin, di come si sta muovendo in quelle terre e di tutto il discorso etno-nazionalista che sta portando avanti, ma dall'altro bisogna, crediamo, avere anche l'estrema chiarezza del fatto che quello che sta succedendo è anche enorme responsabilità della NATO, che è un'alleanza militare, ricordiamolo, che viene dalla guerra fredda, che non è mai stata smantellata e che anzi negli ultimi anni, oltre a tutte le guerre che sono susseguite, anche porta avanti una politica espansionista su quel fronte, diciamo così, orientale, che ha sicuramente generato e contribuito a quello che sta succedendo. Quindi si sembra necessario appunto uno schieramento chiaro contro la guerra, ma che sappia appunto anche indicare le responsabilità e i nemici di chi, come dire, usa lo strumento bellico per lucrare, aumentare profitti e per appunto giocare con una guerra pericolosissima. Credo sia un momento davvero delicato, preoccupante, e appunto la necessità di riempire delle piazze che sappiano mobilitare e parlare chiaro credo sia davvero importante. Devo dire che in questo momento la piazza, nonostante sia incominciata da pochi minuti, è già piena, quindi è un risultato che dà un po' di speranza, ma sicuramente c'è da aprire un percorso, e credo che insomma ci troviamo di fronte a un cambiamento che sarà di lungo periodo, è abbastanza devastante in qualche modo, tra virgolette, questa sorta di uscita, poi sarebbe da approfondire, dalla pandemia, che però insomma vede immediatamente questo elemento bellico che irrompe in Europa. Se ho un altro qualche secondo, vorrei però anche ricordare che purtroppo è da almeno 20 anni che i movimenti dicono che c'è una guerra globale, permanente, continua, quindi non possiamo nemmeno pensare che, siccome ha toccato il suolo, tra virgolette, europeo, questa guerra sia una cosa sé stante. Vorrei ricordare che comunque negli ultimi anni gli interventi bellici tutto attorno all'Europa si sono susseguiti, penso anche solo alla Libia e a quanto è successo di recente con l'Afghanistan e prima ancora l'Iraq, quindi insomma è purtroppo uno scenario globale davvero terribile, in cui l'urgenza di un'istanza di pace radicale, quindi una pace che sappia però individuare i nemici responsabili e portare anche queste contraddizioni in seno a queste parti, sia un discorso di cui oggi c'è un'assoluta esigenza. Infatti appunto abbiamo detto né con Putin né con la NATO, ma voi dite anche che le guerre sono loro e i morti sono nostri, quindi come dire, la divisione, diciamo, è verticale che fate, non orizzontale. Diciamo che questo è forse anche una banalità, ma che è giusto sempre ripeterlo, comunque dalle guerre chi le paga sono sempre le fasce sociali più deboli, chi va a morire sia che sia su un fronte, sia che sia in forma tra virgolette civile, sono sempre comunque appunto i soggetti che vengono appunto più deboli, più marginali, le classi sociali più basse, diciamo così, e quindi noi consideriamo come nostri morti in qualche modo tutte le persone che da questo conflitto ne rimarranno triturate e schiacciate, e consideriamo la guerra una loro guerra, appunto perché sono in realtà questi giochi tra potenti che su interessi geopolitici, strategici, tutti loro producono questi massacri in atto a venire, e comunque producono appunto un clima in cui il discorso, il ricorso allo strumento bellico sembra ormai l'unico strumento da tanti anni a questa parte con cui si regolano in qualche modo i conflitti e lo scenario internazionale.